Il 26 giugno si è conclusa la carovana internazionale per la vita dei lavoratori e delle lavoratrici colombiane a cui abbiamo preso parte come rete boicottaggio della Coca-Cola. A questa carovana hanno partecipato ben 56 persone da 10 paesi diversi ed è stata un'iniziativa molto importante soprattutto per ridare un po' morale al movimento sindacale colombiano che si trova in grandi difficoltà. Come sappiamo la Colombia è il paese in cui vengono uccisi l'80% dei sindacalisti che vengono assassinati ogni anno nel mondo, quindi è una situazione veramente critica. Nel corso della carovana c'è stato l'incontro con componenti sindacali, con le associazioni dei diritti umani, associazioni delle donne che operano in Colombia, c'è stata la possibilità di ascoltare le testimonianze dei lavoratori sulla repressione che subiscono attraverso torture, rapimenti, minacce e attraverso assassini. Proprio di oggi la notizia che la CUT, la centrale unica dei lavoratori, quindi diciamo un sindacato confederale colombiano, ha diffuso un appello, un SOS, proprio perché la situazione si va sempre più deteriorando. L'ultimo assassinio c'è stato ieri, l'ultimo assassinio invece di un lavoratore della Coca-Cola risale al 20 aprile, dopo in cui è stata sterminata un'intera famiglia a Bucaramanga, è una famiglia imparentata con un sindacalista che aveva preso parte allo sciopero della fame che aveva tanto messo in crisi la Coca-Cola il mese precedente. È stata anche un'iniziativa molto utile questa della carovana proprio per ristabilire e rafforzare i contatti tra tutte le organizzazioni che in tutto il mondo stanno promuovendo e dando seguito a questa campagna di boicottaggio. Sono state realizzate iniziative in collaborazione con associazioni inglesi lì a Bogotà e questo giorno diciamo in mondiale di boicottaggio della Coca-Cola quindi vede iniziative in tutto il mondo. C'è appena arrivato un volantino di un'iniziativa che sarà fatta a Saragozza. Noi in Italia stiamo cercando di coordinare un po' le iniziative che verranno fatte. Si parte appunto il 22 luglio con dei volantinaggi e dei presidi a Torino, a Modena, a Bologna, iniziativa organizzata dalla Next CGL, quindi una componente del sindacato CGL che aderisce all'iniziativa e chiuderemo a Roma il 24 luglio con un'iniziativa centrale, un concerto con cui cerchiamo di finanziare questa campagna di boicottaggio, la prima data del No Coca-Cola Tour, quindi un tour musicale che si contrappone a quelli che fa la Coca-Cola per pubblicizzare il proprio prodotto e presso cui noi interveniamo appunto per invece diffondere le iniziative e le motivazioni di questo boicottaggio. In particolare abbiamo iniziato a essere presenti a questi concerti della Coca-Cola l'anno scorso a Roma a settembre e ormai queste iniziative si stanno diffondendo in tutta Italia. Tutte e sei le date del Coca-Cola Live at MTV Tour saranno presidiate da associazioni che andranno in piazza a dire a tutti quanti coloro che assistono al concerto quali sono le motivazioni del boicottaggio. Stiamo preparando iniziative a Firenze, a Napoli, a Palermo, ci sono già state iniziative oltre che a Roma anche a Milano e a Rimini. Per quanto riguarda la decisione del boicottaggio abbiamo superato le 8.000 firme, quindi stiamo andando verso le 10.000. Molto importante negli ultimi giorni è stata l'adesione della CISL, quindi un sindacato che normalmente non è vicino a queste modalità di lotta, di azione politico-sociale, che però ha partecipato alla carovana e quindi avendo visto con i propri occhi quello che accade in Colombia ha deciso di aderire pienamente alla campagna con la sua componente dei lavoratori metalmeccanici, quindi con la FIM CISL.